America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, sentiamo Donald Trump, il Donald Trump indipendente, poco prima di partire ieri per la Florida. We're not looking at amnesty, we're looking at allowing people to stay here. We're working with everybody, Republican. We're working with Democrat. I just spoke with Paul Ryan. He's on board. Everybody's on board. Ecco, avete sentito, chiarissimo. Trump dice: non stiamo valutando la cittadinanza o un'amnistia. Stiamo considerando di permettere alle persone di restare qui. Ho appena parlato con Paul Ryan. Repubblicani e democratici sono tutti d'accordo. Quali sono le persone che devono restare qui? Sono i Dreamers. Sono quei figli di immigrati che sono arrivati qui innocenti, bambini, sono cresciuti in America e che a un certo punto, proprio una decisione di Trump, su suggerimento del suo segretario alla giustizia Sessions, aveva deciso di mettere con le spalle al muro, abolendo una legge che li proteggeva e dando tempo al Congresso di trovare una soluzione fino al marzo dell'anno prossimo. Beh, la soluzione Trump sembra averla già trovata, anche perché si è accorto che la reazione in America è stata imbufalita un po' dappertutto, con l'eccezione dell'estrema destra. E infatti adesso è l'estrema destra ad essere rimasta totalmente sbalordita, perché non si aspettava un voltafaccia di questo genere da parte del presidente. E il titolo di Breitbart dice: Amnesty Don, il don dell'amnistia. Beh, non potrebbe esserci accusa peggiore da parte della destra. Per questo Trump ha aperto poco sopra dicendo: non stiamo valutando la cittadinanza, un'amnistia. E quando Donald Trump dice: tutti sono d'accordo, ecco, qui davvero ci accorgiamo che il presidente ha gustato questo sapore di quella che, beh, chiamiamola convergenza. Convergenza che c'è stata già la settimana scorsa, è stato quello, devo dire, andando un po' a ritroso, il segnale principale che abbiamo avuto di un possibile cambiamento di umore da parte di Donald Trump. Sentiamo Chuck Schumer, senatore di New York, capo della minoranza democratica in Senato. Leader Pelosi and I had a constructive meeting with President Trump and several members of his cabinet. Ecco, queste dichiarazioni di Schumer sono della settimana scorsa, sono delle dichiarazioni, devo dire, molto gustose, perché arrivano il giorno dopo un accordo che Schumer e Trump sono riusciti a mediare insieme per superare il tetto sul debito. Adesso questa è una vicenda un po' tecnica, molti di voi non la ricorderanno, però l'estrema destra repubblicana tiene in ostaggio il fatto che c'è sempre una scadenza per poter rinnovare il tetto sull'indebitamento americano per cercare di ottenere qualche cos'altro. E la realtà è che se tu non rinnovi il tetto sul debito e non consenti al governo americano di indebitarsi, chiudi il governo. Ogni volta che questo è successo ha portato danni a chi l'ha fatto, in particolare negli ultimi casi ai repubblicani. Ecco, Donald Trump, ma con grande semplicità, li ha semplicemente ignorati, si è messo d'accordo con Schumer e questi signori sono rimasti paralizzati, sbalorditi dal fatto che il loro presidente, che ritenevano fosse vicino alle loro posizioni, potesse all'improvviso trovare un accordo con i nemici, perché qui non si sta parlando di idee diverse su cui magari si discute per trovare un compromesso. Qui si sta parlando di: noi siamo da una parte, voi siete dall'altra, non parleremo mai fra noi. Ed è questo davvero il problema di Washington, un problema che chissà che Trump non riesca a superare. E perché vi ho fatto ascoltare Schumer? Perché il gustoso racconto di questo senatore di New York, uomo straordinario, tra l'altro ovviamente si intende molto bene con Trump, si conoscono da sempre. Cos'è successo? Che Trump lo ha chiamato il giorno dopo il loro accordo e gli ha detto: Chuck, ma questa è una cosa fantastica, tu pensa che c'è Fox News che ha parlato benissimo di te. Fox News è la rete televisiva della destra americana, e allo stesso tempo le tue reti hanno parlato molto bene di me. È una cosa fantastica. E Schumer dice: ma certo, andiamo avanti, caro Donald, è questo il modo di fare politica. Ecco, questo secondo episodio è significativo, perché sui Dreamers c'è una differenza ideologica. Sui Dreamers Donald Trump finisce per umiliare Jeff Sessions, il segretario alla giustizia, che non sopporta, non lo può vedere. The program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded. Ecco, avete sentito Jeff Sessions. Jeff Sessions, secondo indiscrezioni raccolte proprio questa mattina dal New York Times, ha confidato agli amici che la sua esperienza con Donald Trump, il confronto che ha avuto con il presidente subito dopo la nomina del procuratore Mueller, è stata la più umiliante della sua vita. Trump lo ha trattato malissimo, nell'ufficio ovale lo ha insultato, gli ha detto che nel momento in cui lui aveva rinunciato a partecipare all'inchiesta russa, perché anche lui era un pochino coinvolto su questa cosa, ha tradito la fiducia del suo presidente e Trump gli ha chiesto le dimissioni, dimissioni che Sessions gli ha dato, poi Trump le ha respinte. Ebbene, Sessions era il più fervente difensore dell'abolizione di questa legge introdotta da Obama, che consentiva a questi 800.000 di restare qui in America in trasparenza e a lavorare. E a questo punto è un 1-2 che non vedo come possa sopportare, eppure resiste e sta lì, però credo che sarà lui il prossimo ad andarsene. We should be able to come together to make government work for the people. This includes tax reform that is pro-jobs, pro-growth, pro-family and pro-Americans. Very simple. Ecco, riassumendo, di nuovo un audio di Trump che dice: dobbiamo essere in grado di lavorare insieme per il bene del paese, questo è il motivo per cui mi sono candidato, per creare opportunità e posti di lavoro, questo include una riforma fiscale bipartisan che sarà vantaggiosa per il lavoro e per la crescita, per le famiglie e per gli americani. Ecco il terzo elemento, questo è il terzo pilastro su cui la bipartisanship di Trump dovrebbe poggiare, questa sua indipendenza, questo suo mettersi al centro rispetto a democratici, rispetto a repubblicani. Attenzione, che un presidente non schierato come Trump in questi giorni non lo si era mai vista. Cioè, come dire, qualcuno sul New York Times ha scritto: potrebbe essere quasi la fine del bipartitismo come l'abbiamo conosciuta. E magari non è un male, perché sono 10 anni, 15 anni che si lavora soltanto sul muro contro muro. E dunque la riforma fiscale, promessa centrale della campagna elettorale di Trump, su cui le posizioni sono molto distanti, ma che sia democratici che repubblicani vogliono, potrebbe essere il terzo elemento di compromesso. Vedremo, già la settimana prossima se ne parlerà e capiremo se è possibile muoversi in quella direzione, cosa che piacerebbe moltissimo alla borsa, ai mercati, alle aziende e, beh, devo dire in generale un po' a tutti gli americani. Quando si riesce ad abbassare un pochino le tasse, come dire, ci guadagnano tutti, democratici, repubblicani e cittadini. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Come vi ho detto, non so se questo Trump che vediamo in questi giorni sarà il Trump definitivo, spero di sì, perché con il compromesso poi si raggiunge tutto. Un presidente che sembra smarcarsi dalle logiche dell'appartenenza politica, e dunque di James Brown, I don't want nobody to give me nothing. Nobody to give me nothing. Open up the door. I'll get it myself. I don't want nobody to give me nothing. Open up the door. I'll get it myself. I don't want nobody to give me nothing. Open up the door. I'll get it myself. Do you hear me? I don't want nobody to give me nothing. Open up the door, I'll get it myself. Don't give me integration, give me true communication. Don't give me sorrow, I want equal opportunity to live tomorrow. Give me schools, and give me better books, so I can read about myself and gain my truer looks. I don't want nobody to give me nothing. Do you hear me now, now? I don't want nobody. Give me nothing. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!